27.555, come ho già sentito, se ne va in punta di manicomio, il culto li prende, ma come se li prende? Non ne prenderà tanti che si dovrà vendere il baracchino lui, si comprerà sicuramente una terra. Devi rimanere dall'1.40 o Sanremo, se non vuoi prendere colpi da me. Se poi te ne vai in punta di casino, che io sono 28.300 e tu sei a 27.600, 27.750 o 27 rotti che vi ho già sentito, non è il radio che ha Natalino e che ha Adriano, è un baracchino, chiaro che il colpo li prende. Sento uno spazio, una mezza portante modulata, ma che ha traffico micidiale. Vabbè, ah, se ne disturbo, volete ma non ascolto, parlate voi. Ah, yeah, ti disturba, noi non ci disturbi, noi siamo 27 anni. Non ha capito ancora. Magari che disturbo, anche disturbo, ci ha sentito un bagliso, una cagli, a favore su tutto, no? Cerca di capire. Un'altra lauce, guarda che non c'è più con quella frequenza, questa parte non c'è più. Ma con la radio alta disturba. Allora, chi se disturba il splatter che si compiono a parti come si deve. Il splatter sono un'altra cosa. Non si fa niente. Armoniche furie, quello si possono eliminare, il splatter no. Chi li prende, se mi sento la faccia, per non essere il tipo. Quello ce l'ho messo a fare. Io a sapere, ho detto, ce l'ha picchiato non per lo spazio da lui. Vado a qualunque parte, non disturba. E che cacchio è? No, non esageriamo, là. Non esageriamo. Se uno ha un altro utente che usa la radio vicino deve anche capire che deve sopportare, non deve fare per potente. Già lo so, ma tutti non la pensano come noi. Se la figlia nel culo, perché insomma, io sto parlando per me. Io ho la concessione per modulare 27. Loro hanno la situazione per modulare dove cavolo devono modulare e si cerca una via di mezzo, semplicemente, che cazzo è, se bisogna ricordarsi gli occhi, no? Semplicemente si trova una via di mezzo. Peccato che non c'ho il numero di telefono di Sorvirio, se no l'avrei telefonato. Siccome molti hanno tipo, che ne so, classici 140, 680, sì, e i 450, o il TS, no vabbè, il TS 2000 è più selettivo, però se tu hai un 440, un 450, hai qualcuno a un megahertz e a 100 metri di distanza da casa, i colpi te li prendi. Ma è stato che te li prendi, se quelli sono autorizzati ad andare dove devono andare non li puoi disturbare. Quindi chi ha la concessione paga 12 euro non è autorizzato. E infatti non sono incazzato i discorsi che prendi, cazzo ci faccio il baracchino con tre vatta va, pure un disco di disturbeggio. E allora ne scacco tutto e buonanotte, no, buh. Tu sei la cuccia sul medio perché non ci sei più, sei sparito. Adesso sei a posto. È nato lì, chi paga 12 euro, se ha un baracchino, chi paga 12 euro non ha gli stessi diritti. Ma non puoi andare a disturbarli a loro, se no ne subisci le conseguenze. Che io sappia. Ah, però, vabbè, io pago 12 euro. Teoricamente e quindi non posso disturbare. Ma qui allora a questo punto devo avere il dovere, che ha ragione, che ha ragione. A un certo punto invece è una cosa più semplice accordarsi di conseguenza. Tutto lì. Un attimo di bianco. Ok, capito, sapete, tu frega che non ci sia forse in questo momento, sei ok. Saverio. Sì, sono ok, io guardo male, adesso ok. Ma sì, mi sta squillando il telefono. Ah, attenta alla Spagna, attenta alla Spagna, se ne sbucciano l'Italia. Attento compagnero, vamos a ver se va escuchando Nord Sardinia Italia che vanno. Se qua vicino. Eia, è bene tu. Non dici. Perché? A chi c'è voi? Fra persone prima di passare cose tragiche, cacchio. Infatti, è quello che dico anch'io, purtroppo non tutti la pensano come la penso io. Io sono tollerante, ma c'è gente che non è tollerante e non tollera, capito? Io non sto parlando di tolleranza, io sto parlando semplicemente di comunicazione. Cosa vuoi che ti dica? Io penso per me, da voi, lasci, arrangiami, cosa vuoi che ti dica io? A questo punto glielo dici in inglese, glielo dici in francese, glielo dici in italiano e non capisce, e cosa vuoi che ti dica io? Io sono dalla parte di quello basso, perché insomma, una cosa semplicemente, a questo punto non so se gli ha detto di persona semplicemente di organizzarsi, non lo so. Sì, gliel'ho detto qua. No, sto parlando del diretto interessato. Il diretto interessato è entrato qua e gliel'ha detto. Molto gentilmente entrate, gliel'ha detto. Il diretto interessato gli ha detto semplicemente che stava entrando e che aveva portato lì, e poi l'ho ascoltato io direttamente, quindi sono testimone. Non ho parlato di persona, non c'era bisogno di fare grandi casini. Evidentemente si sono lamentate altre persone, non solo quella persona lì. Quello è entrato gentilmente, ve l'ha detto, mi sei entrato in tal luogo, però cosa vuoi? Io non dico più niente, basta, mi faccio gli affari miei e boh. Ah sì, però, tragicamente, è la cosa più giusta. Però se tu vedi sentire anche gli altri tre, ma su quella frequenza lì li senti. Vabbè, tu non li senti, però li sento io. Non sono vicino, sono lontano. Ci sono. Allora quindi devono scaricare la colpa su uno, deve fare il capo espiratorio lui per tutti gli altri. No, tutti controllano. Cazzo. Tutti quelli che disturbano. Cazzo. Non ho compreso, Quella persona è entrata e l'ha detto a lui. Ma lui gli va a essere bisogno altri, però. Capito? Perché quella persona non è neanche qua. Diciamo che non è qua. Quindi lui a quell'assembramento non ha partecipato. Capito? Ok. Vabbè. Non controlla più di dovere. E vedranno, se non ci vuole molto, ma il tuo rispetto lo vedi, è chiaro, c'è, l'importante c'è, non c'è la marcia da fare, inutile che nascondi, ma non è lui è uno dei quattro. Eia, già ci siamo compresi, basta, ci parla un discorso, va. Per le male che diamo solo la colpa a lui. Non la stanno dando solo a lui, l'ho detto. Cazzo. No, pensavo che la stavano solo a lui la colpa. Ok. Non venga allora. Cioè, sono tutti puliti. In modo che tutti quanti usciamo regolarmente. Mi dà fastidio, perché anche io. Quando vado a fare ascolto in 10 metri, e quindi infatti oggi siamo delle emissioni strane. Non mi sento. Però sentono gli altri. Esatto. Ok. Basta. Parliamo di altro. Parliamo di donne, non lo so. Ok, oggi compleanno di mia sorella, che ho detto ma mangiato di burrito, gamberoni, cozze al sugo e non che torta. Ma quanto che la vita di burrito? vita, mi fa vita di qualsiasi cosa, ma non di mangiare conmigo. Chi è che ha detto che c'era di menù nel compleanno? Ciao Antonio. Buonasera. Buonasera, te faccio già il nostro, tanto cosa non può mangiare? Poi vongole, ravioli, bistecche, e tutto, oggi mi sono fatto quella mezza di bistecche, la faccia di Natalino, la è a dieta, già si apprezze. Capito? Quindi io almeno c'ho un coniglio e un prete qua. La faccia di Lucasino, baci. Non parli adesso, con tucu. Sto mangiando, non cazzo faccio parlare, sto mangiando il gelato. Asco, tu hai il potere di farmi incazzare, fai da bravo, entra dopo che hai mangiato e non è parlare che ti hai mangiato il gelato. Lo sai che io non me lo posso mangiare, mi stai rompendo le nola. Anche lì il gelato che sto mangiando. Ma se l'avrebbe messo lo dico io. Metto un culo dietro. E bisogna vedere che gelato sta bagnando però. Un culo gelato che è un gelato in culo. Oh, ma cosa diamo? Ancora è presto. Mangi con i guanti volete attacco. Cazzo mi giudicano e prendi. Cazzo mi dici il menù, io non ne posso mangiare, gatto. E loro insistono. A questo punto io chiudo e me ne vado. Si è parlato di mangiare. Via, ieri notte guarda, ci avevi quelle sardine belle, non so per stare troppo con quel motore. Però mai me le ha fatte assaggiare, erano veramente buone. Mamma mia, una pagina. Che paraculo di Antonello. Natali. Vuoi sentire la pina, Natali? Ma dove c'è chiusi, Antone? Che c'è un mulatto, c'è un segnale ambiguo. Ma che cosa sono? Mi pare a me, segnale basso. Non mi pare un'azione di BM. No, oh, sono a casa davvero. Sta succedendo? Perché? Natali. Meno male se li sta bruciando, almeno non lo sento più, cazzo. E questo gli sta bruciando la palla, non è cazzo, tanto li pia fuoco, ma adesso c'è il fumo. Sta aiutando un uomo, mi sa quello che lo farà con tanta io, non farà la pena che quando prende fuoco, quindi è tutta strana a me. Siete il Viking. Almeno pigli il culo, perché ci brucia anche quello pure. Tanto le maledizioni che ci si sta mandando, se si avverano poco a poco ti si brucia anche il cazzo l'antenna. Che paragnosa. Riportate l'autocristisello, quello me ne devo usare, mi farei una parassia. Chi c'è già secco? Non te lo mando neanche le maledizioni perché non funziona più. E tu non ti preoccupate, non ti preoccupate. Quello era da cupare. Vai, brutto buco, a recce di buco, basta di righetta. Oh, chi sa di Antonello, ma cupare male per la casa tua. Adesso c'è il fumo, così non lo sento più per un po'. Sì. Antonio, ho tirato stava per l'antenna, ho detto una controllata, si sì, sono movimenti. Ciao di nuovo, quale modulare? Ma sono a casa la vero? Ma fa che non mi sei? Mi ha anche utilizzato la vita, sì. Sei un po' tuo culo, si rompe allora. Di solito arriva a 40. Fatti i rubis a Klaus, che è un pugno che sta facendo l'ovvio. Visto, infatti a essere lui, che non ho un problema. Ho parlato con l'Olanda oggi. Con il socio ho parlato. Ma perché siete gelosi che Antonio non sta facendo bene? Tutti sono gelosi. curiosi perché sto uscendo bene io, non per altro, voglio un culo, uscire in queste condizioni c'ho veramente un culo, sapete cosa facendo, che gli ha fatto la cazzata io. A bagaglia tua, non lo vedi che mi sei bisuato Antonio? Non fa nulla, non fa nulla, te lo prendo da fare. Sento cosa l'aveva fatta. Vengo subito. Si brucia anche il sugo, non mangi. L'ho fatto stamattina, bello, qua si inventa. Ma cugignoli, per caffè, lo giù a fondo. Partenza! Con curia! Sì? Ciao, cara! Ciao, Luca, ciao, tu! Adesso si brucia il baracchino di Alessio. Allora, parlo io. Luca! Puglia! Ma ieri sera mi hai dato sapire, perché la prima c'era a dieta, dopo mangiare, quindi sta scherzando, mi hai dato sapere le rosse, di lusso, in quella cena. Ma vai, rompimi le balle a due, ma dai, perché anche i cazzi faccio. Cazzo, non va bene. No, no, no, mentre ci viene le sardine, comunque sono buone, ma devo pensare ai magnati. Allora io, Sabino, non l'ho mai mangiato, è capitato da lì, in questo circolo mi ha portato questo amico, e da lì io, no, ne guarda, ce lo so mangiare, vado il chiamo legnata, giorno, guarda, uno mi ha mangiato 3 kg, minimo, e al giorno, le sardine vanno bene. vince due lotti d'ozzi. Mia portante. Quasi tre. Ma non vedo prima arrivi nel mazzo. Fatti un gol. Aia. Ma sono quelle che sono importanti. A me ma quasi vieni, no? Meno male che c'è un'antenna bassa io. E poi mi c'è un'altra antenna, ciao, e non ti dubbia nessuno. Poi una volta in punta l'antenna, mai mi arrivi 5, lasci 3, però vedo la scarpa, vai. Aspetta, che voglio provare un'antenna qua. Allora. Va bene perché hai picchi molto e non scattura, è perfetta. Ma ho paura, no, arriva fino a 150 questo, ma io volo l'alimentatore mio, capito? Questo arriva fino a 150 avanti, capito? No, veda lì, maestro, veda lì, veda lì, noi siamo qua in radio. A me mi arriva 9:10, mi arriva Luigi, arriva benissimo qua, solo con la radio il microfono normale deve avere. Questo microfono, era una radio perlomeno. Boh, io tutta questa radio che sentito non la sento. Non sai cos'è? Che il suo segnale da me è 7. E quindi l'importante è quello che passa il QRM alla preparazione, che come vedi sta salendo è la modulazione. Riesce a passare 7. Picchi di modulazione a 8:30. Ripeto i picchi di modulazione, da 9:10 passo, già lo so, solo che, anzi 9:05, 9:10, va, però la radio è un po' telefonica, c'è amico. Stai dicendo la salita? L'ha mandato su Antonino, a mettere la camera, ecco, capito? Non vorrei che sia io, non stia registrando bene qua. Natali, tu vai lo dico il taroccato, vedi contro i taroccati. Ma cosa taroccato? Che va benissimo, lo vuoi per mio. Adesso l'ho abbassato di fronte, lo metti a zero. Natali, ho abbassato di fronte a zero. La radio è sempre l'osca, non mi piace mentre radio. Non è la tua solita. Nella Francia, nella Spagna non le rispondo più. X-City, stiamo parlando. X-City. Anzi, mi sa che dentro settimana manco ne faccio di X. Vabbè, ne parliamo nel weekend, nella settimana, vediamo se termine voglia una bella imbarca di PSK o semplicemente RTT, anche se STV, io ho degli appuntamenti che devo rispettare logicamente, lo devo fare. Altrimenti devo fare un altro appuntamento che ci devo essere, giusto per la conferma. Ma cazzo, io come faccio a fare SSTV? Cioè che l'SSTV non me ne sbatte un cazzo, il TSK31. No, io ho delle iscritti in SSTV a 700. Come fai a farli? Con molti PSK, come fai a farli? Il PSK31 mi interessa, se non è messo a posto il programma, come cacchio faccio? Certo che bisogna prenderci la mano. Non so si fa il giorno, non lo so, ma dopo faccio la provvisto che può fare un po' così relativamente. Poi vai a nella propria chiamata a dare una mandata di PSK e ti rispondere tutto il mondo. Io non ne ho sonno, mi dici cosa devo fare, io lo faccio. A piede balcone. No, non sto prendendo per il sedere assolutamente. Si tratta di configurare il programma. Perché devo inserire il mio nominativo, questo, quello, capito? Quello ti occupa 15 minuti, cosa devi fare una volta per tutte. Ma se io non lo faccio mai lo userò. È vero. No, anche a fare una monitor, a prescindere da internet. Infatti. Perché vabbè, io i PC ce li ho, però tu non puoi usare due PC, non ce li hai, quindi va bene, non monitor. Se te l'ho detto, cazzo, perché me lo volevo fare io l'altro PC? Perché già me lo vuole la radio, ecco perché. Vuol dire che c'era un motivo, no? Mi! A proposito, a monitor ti serve? Un monitor di che? Mi PC. Beh, se sui 20 pollici vado, sì. No, lo so quanti pollici è. Però già va bene. È nuovo. Ne ho due qua di unico. Ho voi schermo piatto, c'è 9 pollici. Ma difficilmente. Capito, non sparire, rimani in radio. Non la televisione che non si fa la mazza, nel calaus, perché lo creiamo questo monitor? Pure lo tu, secondo PC. Ne ho due di monitor in più. Sì, ho capito, io ce ne ho quattro, cosa faccio? Savio! Siete spariti voi due, non io. Io non ascolto e voi non avete più modulato, sicuramente eravate in qualche altro sistema. Sì, il sistema della mia minchia, al telefono, il cellulare si chiama. E poi io sono andato a mangiare, sono ritornato qua, per due ore chiamando, sia a te che a Adriano, quindi non rompere le bollacce. E poi c'è anche Adriano qua che mi ha risposto, chiamando Salvo. E si conferma, cioè ho capito che c'è una testa mezza ricuscita, come si suol dire. Ho aspettato un quarto a 20 minuti, ho visto che non si è sentito nessuno, di cui ho aggiunto. No, c'è già adesso. Il portiere Salvini è un bastardo, io lo so cosa fa. E cosa sto facendo? Lui è un bastardo dentro e fuori, ciocca, rimane da lui di Roma da giudizio. È a travaglio, è una settimana di mattina, una settimana di sera, non c'è Eleonora. Io sono in ansia, sono questa strana risposta, sono in ansia di brutto. Speriamo là. E io non sei in ansia tu solo. Cerca di capire. Che c'è gente che fa peggio, ma peggio di te, tipo io. Vai, vai, sdraiati. E poi ti svegli. Grazie. Peggio di me non può stare nessuno, a metà di lui. Vabbè. Se lo dici te, se lo dici te, vabbè, cambiamo discorso. Se sento la pasta la mattina. Piangervi addosso non si fa niente, ne fa qualcosa io. Esatto, per una depressione. Grazie, ma la mattina va in culo a cuore. Tu ti stai pigliando. In questo istante momento no, come l'ho acceso ero tutto da un'altra parte, molti cani non stavano qua e sentivo Adriano. Pagava, poi via, per carità, va bene. Ecco. Avanti. Buonasera, ciao, salve, buonasera. Oh, Adria, ti volevo chiedere una cosa, Adria. Canta, dimmi. Adesso io sto cercando un frutto, un galo frutto. E quindi? Se sai qualcuno che ne ha qualcuno, o un galo frutto o l'8001, uno dei due, uno o l'altro, se sai qualcuno che ce l'ha qualcuno. Ma, se sento, ma baracchini, è tanto poco, ne riparo, ma... Se sento qualcuno trascurando, Sì, se non ce l'ha. L'8001 a Cristian, ne ha tracciato tutto, ha tagliato anche il filo, ha sentito il fratello, ma non ha tagliato un ruvido di antenna. A proposito, va bene, non lo sa perché qui. Hai visto? Provato già l'apparato, va bene, l'apparato, non sbaglio. E beh, come si fa a tracciare a Cristian? E quello è il problema, io non me lo ricordo dove sta. Faccio una budi ma non mi ricordo dove sta, se no te l'avrei rintracciato io. A meno che non vado da Giulia, domani mi faccio dare il numero di Antonio, il fratello, se ce l'ha. E ti faccio sapere lui. Positivo, la serve per Tommaso, ma l'ha chiesto, dai. Ho un frutto, uno come le uno dei due, dai. Ecco. Vabbè, vediamo un po', cerco di buscare il numero di Antonio, perché Antonio mi darà il numero di Cristian e così io lo prendo, ma glielo dico se lo vuole dare. Anche la taglia blu vive di Antonio. Via, è per quello che sto dicendo non entra, perché ne ha tagliato il filo adesso. Non è Antonio, è il fratello. L'ho provato l'altro giorno. Ma aveva tagliato, ma non si è affrontato proprio, per il motivo, cosa è successo? Nazario, anche io ti volevo chiedere, perché ha tagliato il filo? Motivazione? Beh, quel Rizzo che stava a tagliare il filo anch'io, là. Sì, tu sapevi, certo taglio io qualcos'altro. Perché non riusciva a salire l'antenna, perché c'era troppo massa, lui arrivava a basso masso, si è rotto le scatole e ha fatto così. Sta drovesci, ne ha tagliato tutto, e poi anche disturbava la televisione del padre, un casino. è pazzo, è proprio così. Ma è così infatti Antonio. Si è rotto le palle, capito? Di sentire che lo sentivano basso e che il padre diceva cosa di abbassare, di tenere un watt. Ha pigliato una sigla di tutto. Io queste cose ci sono vissuto nei primi 10 anni e poi ho cominciato a difendermi legalmente, perché poi ci sono state le leggi, avevo io diritto, si chiama diritto all'antenna, puoi fare quello che ti pare, ti piace, di due, perché sono l'antenna sul petto di altri, e minchia, mollente, si può fare, se uno poi è succuba e dei parenti di quell'altra, comunque un altro paio di maniche. Il discorso è a casa Giulia, Andrea, se non è a casa Giulia, è una bugizia, scocco, wow, tira un fatto, se mi disturbi, non mi devi disturbare. E pressione da una parte, pressione dall'altra, perché gli altri magari si lamentavano che era basso, ha avuto un attimo di cosa, ha pigliato una sigla di tutto. Ah, vabbè, in quel caso è comprensibile, allora c'è invece metto altruismo. Capito, intanto si è sentito magari pressato da una parte e dall'altra, gli altri che ci lamentavano che era basso, a casa che ci lamentavano che disturbava, si è rotto la Wallace e mi ha attaccato tutto, capito? Ci ha tagliato il capo, mi ha tagliato tutto. Ciao comunque lui. Cacca. Sì, sì, vabbè, quello è altruismo puro, che funziona così. No, pensavo che avesse problemi. Che fosse arrivato addirittura a tagliare il capo, nel senso, buttare giù l'antenna, certo che disturbava gli altri, perché sono gli altri che si dovevano mettere in regola, tipo eliminare amplificatori d'antenna, tipo AI. Come metà familiare, mi dispiace. E purtroppo non sale, gli ho fatto le palle spesso e volentieri, perché lo disturbava il televisore, chi tu pure addirittura pagasse la televisione, chi dopo un preso da. Sì, ho capito, ma anche lui poteva organizzarsi, scusa. Semplicemente organizzare l'antenna della televisione in modo che lui non disturbava, è una scemenza, una chiapica, che ci vuole. Perdi uno, due giorni addirittura per organizzarti e ci dici a non disturbare. Sì, ma c'è un'antenna troppo bassa, per un sacco di motivi ha preso e ne ha segato tutto. Me l'ha detto Antonio, ero prendito, ho cercato la salita con la pigliura. Ma è qui c'è così, qui c'è così, così, così. A chi babbo non ti ricordo, ma cosa mi si bava la televisione, la buia di via Marzo, non riesci a fare l'antenna che hanno costruito un via di affare, e quindi non abbiamo più a via fare in Asia. E quindi ne ha tagliato tutto. Si attaccava a 4 metri di palo, se la stava a 4-5 metri e vedete che già usciva la lì. Ehi, però non lo poteva più fare perché non poteva più andare a toccare il palo, capito la cosa del discorso? Antonio mi ha detto quello, che non lo poteva più sollevare. Cappala. E poi lo costringevano a uscire con un watt, è logico che con un watt arrivava a basso. Non tutti abbiamo il culo di poter mettere l'antenna come vogliamo. Io ho fatto un corso che ci ho buscato anni e anni, senza antenna, se ci ho gastato di prepotenza, ma proprio di prepotenza mi aiuta, dedimi di giavi, veloce, è bruttico, adesso sono salito, con un voglio in mano, mi, cioè ho detto come ti veni l'arte di un gioco e ti ricudo la cosa, lo voglio a capo, viaggia, che io ho il mio diritto. Sì, vabbè, quello sì. Lui a Vigilia là oggi, mi ha costruito un dipolo qua, se non mi qua, pronto. L'ho attaccato al terrazzo di mia cognata, se c'è tutto quello che mi ha detto, mi ha dovuto dare a vedere un pezzo di vino. E sta di cosa? Qua all'aeroporto, questo caso qui all'aeroporto Lacari. Eppure Cappa mi ha detto cosa, mi ha detto. Quando me ne andrò a fianco, allora posso mettere tutte le antenne che voglio, altre come voglio, e se l'attacco a casa mia nessuno mi può dire niente. È anche logico, no? Ma di tu cosa? sia Edu, Edda che mi avrà detto, a che vi ha attaccato un pezzo di virus. Giurati, ciao. Poi questo l'ho regalo pure. Siamo un trasformatore tutto uguale a quello altro che ci ho attaccato. Pronto a piazzare. Quindi a Klaus, se ti do l'ottore, io non posso usare. Non ti serve, vabbè, serve da qualcun altro. Io non posso usare che mi tocca. Mi tocca la 5 metri, 10 metri. Mi tocca non parlo vicino. Non posso usare il rotore. Vabbè. A me già mi serve. Anche con la 5 metri mi serve. No, la 5 metri la raso mi serve a me. Il rotore io non posso usare. E tu manda che mi faccio un disforo girevole io. Che poi quando busco la linea vedo se me la voglio quella per i 10 metri. Tanto a sempre non ci siamo, vado cazzo proprio tenuto a combattimento. E quando fai quelle ti temo? Ah no, ne vedi roba puntando al petto. La salvatrice ce l'ho per il traliccio. C'è un attimino di bianco, no, invece è stata apposta, un orario normale, invece è stata apposta, torno subito, fai girata. Ecco, avanti, vai, me la guardo pure io la posta, tanto già, la posta sto aspettando una mail di uno della Sicilia che mi deve mandare le coordinate per la QSL, me l'ha domandata, gatto, bruviso. A me non me lo cubia nessuno, mi sono rotto le bolas. Carissimo, e QSL, sono state vantate, si usa. Costo zero e risultati uguali. No, il costo non è zero. Delle QSL. QSL informatica, no, è QSL. Ma quello che ha messo, non tutti hanno il computer, capito la cosa del discorso, vogliono la QSL normale. Lo branco con l'Ugurcia, Corsia, 60 centesimi, poi ci vuole la busta, le cartoline e la QSL personale. Quello se ce l'ho, studiato. Io ho fatto 60 centesimi, boh. Allora sapete, aspetta un attimo. Natalino, qui parla di tempo da perdere. Se gli serve una QSL tanto per avere la fotografia, la poi gli puoi mandare perché gli fa piacere. Altrimenti semplicemente per avere una conferma del QSO, la QSL ormai è approvata, è valida. Sì, hanno tutti hanno un computer, capito l'hai, e quello è il discorso, e quindi gli devi mandare la cartolina normale, più la questione personale, vabbè le cartoline normali che c'è il mio fornitore ufficiale. Ce ne sono agiti, cioè, chi la vuole, non c'è un problema, Andrea, se vuoi un po' di cartoline miste della Sardegna, però con la parte, no. No. Io ho San Matrix, mi rivolgo a Gartres. Anche io voglio che ci sono andato di là. No, ma è sempre come fa come voglio io, quello volevo dire. Ma io ti do cartoline tutta la Sardegna, tu di dove le vuoi, ti porto lo Tom, ti porto il Cervo, di Arzachena, dimmi di voi, dimmi dove le vuoi, dimmi cosa devo fare e io lo faccio. Io ti dico semplicemente che una QSL non è una cartolina, una QSL è una cosa diversa. C'è roba sopra, non è una cartolina tipo ciao ciao sono qua, una QSL è una cosa diversa, questo è un cartolino. È roba occhio, una scemenza che lascia il tempo che trova là. Ehi, hai un pregio, tu li fai la QSL. E dentro se le aggiungi una cartolina che non è pagato dentro per fare un'ulteriore bella figura, ti fa schifo, ti seguo di Zenit, però un migliaio e ti passano mille. Urco, è che cosa è normalizzato? Un tabacchino. Ma ne ho poche, ne avrò, boh, me ne sono rimasti 10.000, là, c'ho poche. Ah, te la bello, ci sa bene. E ne avrò magari 500 di un tipo, 1.000 dell'altro, capito? Forse ce ne sono anche qualcosa in più di 10.000, là. Ne ho 4 scatoloni, ma sono nuove, mica sono rovinate, brutte, sono belle. E che per buttare nel cassonetto è meglio che le regalo, capito? A Natalino gli ho dato un po', ma sono poche, se le vuole uno scatolone glielo do, capito? Non ci sono problemi. Ce ne sono buone di qua per non ne ha due stelle, cazzo, non ne ha buccia, proprio per smaltirle. No, posso buttare via. Infatti quando me le chiedono, cazzo, mi chiedono la cartolina della Sardegna proprio, oltre la questione personale, via. E quello è il discorso. Ma io già ce le ho quelle. Allora, domani mi vengo a mandare a QSL e a tutti i camionisti che intendo. Mi faccio dare le coordinate e un indirizzo che non mando QSL a tutti. E rimetto la foto mia che esce fuori dalla busta. Anima lunga. Pagnaos. Io prendo una cartolina. Ma come mai? Non posso fare QSL con questi dati. Anche lì però una cosa sinceramente devo dire, queste le che mi arrivano arrivano tutti con la cartolina personale, la cartolina personale, una cosa personale della città, alcuni, molti invece mandano soldi, non ho capito per quale motivo, non chiedo niente, non ho capito perché mandano soldi. Ma vai su, di non mi dire, vai! Sì, era vicino a Natalino. Paga soldi e su, di finita. Sì, già è vero, già rimanda. Oh, yeah. Oh, una di Ragusa mi è già arrivata a me la QSL. Adesso mi devono arrivare tutte le altre. Un'altra, la devo dire, chi tu non mi ha mandato l'email e si attacca a quello che dico io, se non ho le coordinate io non gliele mando. Quasi a sera in questo, cosa vuol dire che mandano soldi? Beh, è un'usanza. Un'usanza è anche una regola, diciamo, veramente. Una regola. Che bisogna mandare soldi per avere una QSL, una conferma in modo che che sei certo di avere una conferma. Ti mandano soldi, dollari, sterline. Io naturalmente sono andato a fare il cambio sotto di quelli conservati, dollari, sterline, analisi, anche di tutti di qualsiasi cosa. Ti mandano soldi. Ah, soldi stranieri, no. Ok, per voi darti ulteriore conferma che c'era lì, ma più del timbri che ci sono nella busta che parte da determinato stato, più conferma di quella. Diciamo che loro ti mandano questi soldi nella speranza di avere una conferma. Sicuramente se mi mandano dei soldi, già la conferma era già partita da prima, comunque non c'era bisogno di mandare. Di mandare i recipi, assolutamente, però a volte c'è qualche sbaglio e qualche volta hanno mandato dollari strumenti dove canadesi, sterline, marchi, adesso vabbè c'è l'euro, adesso è tutto unificato in Europa, però dollari sono continuati ad arrivare, non ho capito perché. No, l'ho capito, semplicemente perché ho collegato. Ma ho capito che è perché la 165 è un'isola, è una chiavica, la Sardegna è una chiavica, non modula nessuno, siamo tutti quanti morti, siamo in quattro gatti. Che cavolo. Luigi, avanti, Vulcano. Ehi, che ho sul 47, stavo parlando con Sandro Scuttarosso, dai, facendo la chiacchierata con lui. Ma se no fa aperta stasera, ragazzi, in diretta era come scendi con la potenza di un walkie talkie e mi sento lo stesso. No, ma stasera persa proprio, eh. Stasera tutta bomboletta, capito? Anche Adriano non ci credeva. Aspetta, a voce bassa, non c'è, ma quasi quasi non c'era la radio. Ha detto sta facendo con 2 watt. No, ho sentito anche l'altro amico Adriano. È rimasto sorpreso. Sì, perché così a volte succede, capito? A volte succede la propagazione, bastano pochi fatti, se è libera, diciamo, si è aperta bene, non c'è molta confusione, bastano 2 watt. E fa benissimo, io un giorno stavo murlando qua, ero più o meno 2 watt così, perché c'era il supermercato aperto che era un fastidio, se non entro come fanno la pubblicità, come si chiama, e c'era una vecchia, ci ha detto, se lui crede che non lo fa, tanto io lo ascolto, ma lui non mi può sentire che ho 2 watt, insomma, ma lui dice, no, ti ascolto, e diciamo tutti fatti chiusi. Capo, no, addirittura stavo passando anche sopra la Macedonia. Buh. E magari non mi ascoltano, cosa ne so, a Sussu, quello che ha fatto. Preparazione lunga. Dirci se c'è un'occhiata in USB, se c'è tutto il mondo. C'è. Avanti, buonasera, ciao Gianna. Buonasera a tutti, ciao Adriano, ciao Luigi, ciao anche a Di Marunga, non so se ci sia altra gente perché non ho fatto ascolto, ho fatto una delle cose che non faccio mai, spero che ascolto sempre un po'. Comunque sono tutti visitati, dai. Ah, Natalino c'è, e buh. Ah, c'è anche Natalino. No, facciamo Gianni, buonasera. Che c'è Natalino e buh? Ti sei perso tutti gli altri, salvi. Adria, gli altri nomi li ha elencato lui ha detto, se ne è dimenticato qualcheduno, di qualcun altro c'è solo Natalino e Boom, non c'è nessun altro, oltre le persone che lui ha elencato. Adria! Surri, che per radio acceso. Surri. È che sicuramente sta seguendo qualche altra cosa, e quindi... Seguendo, sono un po' di tempo libero a giornata, sto seguendo quello che si può seguire, e poi c'è la nonna. Beh, vedo che ci temi che arriva di ora, adesso tra poco, e così vado a mangiare, là. Andà bene, dai primi da Talaus. E via. Se ti vuoi purificare questo allora me ne parla adesso, se non via. Se ti vuoi purificare presto, se no più tardi configuriamo quella tu. Non è una pausa, per questo si intende le 2 di notte, quello è presto. A chi? Perché io devo ancora cenare, perché non c'è ancora un orario, adesso c'è un po' di tempo libero. Questo si intende le 2 di notte, perché andrà a dormire 2, 2 e mezzo, 3 di notte. Quindi se vuoi possiamo andare nel bicchiettino a configurartina. Non problema, Klaus. Se tieni, se leggi, vela lì. Io reggo, l'importante è reggi tu. A me già mi reggi tranquillo, non è un problema, sto collaborato. Avanti, Gianna. Sì, io. Che ragazzo, cosa stai di qualche sera? Una questione di natura, già. Sono preso insonnia da ragazzino, quindi. Niente, quindi qualcosa si dovrà fare fino a 2-3 di notte. Io mi sono allungato, prima già stavo anche di più, adesso qualche di più, ma adesso alluna, se non mi trovo prima, sto sino a luna, mi guardo il televisore, così è come se vado a mettere una sigaretta. Ah, quindi sì, anche tu sulla soglia dell'insonnia, tu sei quasi insonne, di luna è un po' ambigua, non è normale. Purtroppo chi soffre di insonnia qualcosa dovrò fare, no? Fino che gli bastano 8 ore invece che gli bastano le 4 ore. Se si può cioè se si addormenta prima, poi la mattina si sente male. E poi a parte il fatto che non si riesce a addormentarsi prima, qualcosa dovrò fare. Se mi sembra che a Cacciamacco, se prima magari mi addormento, mi viene la bionda, come magari prendo la baracca, poi mi sveglio, mi alzo, mi fumo una sigaretta, mi siedo il televisore, così sto un po' tranquillo, rilassato, e poi non ne vado a letto. Capito, sei un po' insonne, ma questo a che ora però? No, te mi addormento per dire, parlando con voi così, alle 11 mi addormento, mi faccio per dire, mi prendo una mezz'oretta di sonno, poi basta con la mezz'oretta per me risveglio, mi alzo per dire per bene, mi accendo la sigaretta, mi accendo un po' il televisore, vado a chiudere di canale a vedere che cosa c'è di bello, e poi me ne ritorno a letto verso l'una, me ne ritorno a letto. Vabbè, è al limite dell'insonnia, quella cosa normale. Diciamo che non ti va di mettere il cervello a nanna prima del tempo, tutto lì. No, è purtroppo. Vabbè, quella non è insonnia. L'insonnia è quella che non ti fa chiudere l'occhio fino a 2-3 di notte, tra lì. Cercando di fare qualcosa finché non ti cali e poi ti svegli la mattina e se sei mezzo fresco come una rosa. Avanti Saverio ha appiccicato la televisione, una cosignola di Bruce, avanti in alto l'aus. Ma è matto, sì, che è una cosignola di Bruce, sembra a 4 dita la televisione, ma la ragazza ha dovuto lavorare parecchio per comprare la tua televisione, tutto si può bruciare, la macchina si può anche bruciare, ma la televisione no. Allora sapete, spegni il baracchino e ti guardi la televisione. Oh, veramente, ma tu senti volume. Sto guardando le immagini su AXN, un canale di Sky, un film che c'è però è senza audio, però ho fatto l'audio, sto guardando queste immagini che sono colpiscono, ma allo stesso tempo sto ascoltando a voi, ok? Ergo, non apprezzi quello che stai guardando, perché guardare le figure non ha senso. Quindi, capito, ti dico la verità, ti interessa veramente quella televisione o c'hai effettivamente qualcosa che ti è rimasto di ascoltare? No, sto ascoltando a voi, là. C'è anche Luigi in parcheggio. Sto un po' ascoltando, là. Poi ogni tanto sento qualche fischio, quindi mi sto già nervosendo, là. Ciao, Savizzi, andiamo lì, tu sei quelli con la visione. Avanti nel Natalaus, capisella. Natalaus, com'è? Ma non ha detto che si c'è calzerne a quelli che guardano la televisione. Come? Dipende da che cosa guarda. No, non lo so, quelli che guardano la televisione dice che non è calentello. Vale, la televisione è accesa perché mi fa luce, mi. Quando voglio attaccare quel faro, quei 4 pareti, insomma, beh, è la maggiù, mi dà fastidio di qua. C'è quel cacchio di presa, di cosa che c'ho, non mi piace, di lampada neon, che c'ho, non mi piace. E quindi c'ho il televisore acceso, c'erano delle immagini che mi hanno attirato, stavo guardando un attimo, allo stesso tempo mi sto ascoltando, capito? Quindi è bello anche ascoltare. Però è bello quando ascolto a voi, no? Quando ascolto altre cose di altri canali. La pausa, sai che facendo quel piccolo monitor che hai visto tu, che fa luce. Cazzo, piccolino è, ora lì. Andrea, io ho risolto anche il problema delle luci. Mi hanno fatto un regalino, mi hanno regalato quelle lucette piccole piccole che si mettono nelle macchine all'interno, quelle blu. Se c'è fruttate sugli apparecchi, accendo quelle lì e mi faccio la visione notturna. Ah, che bello, vendersi di Paolo con simmetrizzatore pronto all'uso, KK. Gianni, non capisco la mossa, è troppo eco. Troppo eco? Aspetta che lo trovo dentro. No, una media. Io personalmente non capisco la mossa. No, Adriano, si può togliere, questo che è quello dell'apparecchio, io sto usando un microfono normale e amplificato, però sente ecco. Ecco dell'apparecchio, aspetta. Vendersi di Paolo con simmetrizzatore pronto all'uso, cappa. Comprasi di Paolo con simmetrizzatore a 50 centesimi, cappa. E allora, il capo 60 centesimi. 20 centesimi al metro, vatti, 2 euro, domani quando lasciamo la parecchia, domani sera voglio già sentire il tipo piazzato, là. Mimina che se ne francese. Quindi, direttiva, 10, 11 metri, 5 elementi, 15 dB. 7 dollari. 8 sterline. Coma? Non ho capito le offerte, no. 8 sterline, 7 dollari. Se tu non un par di coglioni, pesa 20 kg, no, 12 kg, 5 elementi per 10 metri. Vabbè, allora, visto che pesa 8 kg, prenditela a peso a Marcia, tu vai, alla sua sacca rossa. Ok, ma così mi paghi. Ed è anche troppo, perché in genere più di 7 euro non dovi. Natalia, a chi lo gliela pagano bene, mi da cosa rotta male, l'alluminio glielo pagano bene. Eh sì. Vabbè, allora la butto via, la mattina la butto via. Non stanotte, ma sopra, passano a ritirare, la metto lì. Bravissimo, sto arrivando. Affondi la faccio una catenina, boh. Una catenina d'alluminio fatti. Bene, ci faccio cane da pesca. Così me ne compro una qua dietro, non premetto. Con cimino intercambiabile. Adattabile per 50 anni. No, fonte con mulini, forse andare a pescare. E così io mi compro quella senza anelli, senza niente, così mi faccio la multibranda. Già innescata, vendici cane da pesca con lenza 0,40, già innescata al 2006. Chi sa compra? Applauso, canne da 8 metri a 14 euro a fottio. No, ti ho vendito, 8 metri, 10.000 è la mia divertita, già ordinata io. No, scusa, ma poi la buona divertita, voglio fare una del saluto. Una bella che tu vuoi fare. Il rotore ce l'ho. Nel calupo cosa ci manca il rotore? Se ce l'hai, ma non lo stavi dando a me quel rotore. Cappa. Però ce n'è qualcuno sotto nascosto. Quello del ciccia ancora il bastardo. Come? Sì, già mi sono capito io, quello lì sì c'hai. No, assolutamente. No. Per carità, quel rulli pure. Gianni, dipende di te. Ehi, parlatemi di antenne, cosa state combinando con queste antenne? Allora, li parlo già, mica ce n'è uno pronto, mica mia cognata mi ha detto cosa a casa, me l'ho dovuto togliere. Pronto all'uso, E dove me lo metto la strada? Sul tetto adesso io non ci salgo. Mi dicono cosa, già lo sai. Porta l'antenna tua. Nel palo dell'antenna tua lo metti. Ma se non si può salire sul tetto cosa mette? Ma se non può salire. Tiro le chiavi, lo piatti, quando mi sveglio lo provo se funziona bene. Ah, ho preso un cavolo, avete provvedato in 34. Un attimo. Hai detto Gianni, che sul tetto non si può salire, che passa l'antenne. Tiene quella che c'ha. Ok. sì, Gianni a cliente eliminato. Fa il pezzo di filo. Dieci centesimi di filo. Infatti il discorso che poi già arrivo a Santiago Roma lì ha capito, però ti elimina il QRM. Sì, però è anche questo di spazio, un sacco. Ah, io sono San Tommaso, finché non ve lo credo. Facciamo così, tu, io domani mattina mi avevo addormentato, trovi le chiavi sotto il tappeto, Natalì. Lo piatti, tutto quanto, poi quando mi sveglio con calma lo provo, se funziona bene, c'è un caffè pagato al Mar Rosso. Capa, Natalì, se sta facendo di spostamento, se sta facendo per lo spostamento è... mettiamoci in giro di manutenzione, niente, così, a baranda, spese varie. Mettimi il grasso di focca lì, per isolarlo bene. No, ma l'importante è che sotto le chiavi ci siano 100 euro. E ti sto lasciando le chiavi della soffitta lì, mettiti i sollevi, ti fai un piano sopra, un attico. Sì, va bene, però come già per fermarle le 100 euro, metti sopra le chiavi, capito? Andavè, va bene che è firmata Natalino, è firmata quindi di marca, capito? Come le compri un paio di occhiali per la manocchina e il Reba, quelli lì siccome l'ha fatto Natalino, diciamo di valore. Un pezzo di riso. Ehi, ma una volta che entrato nelle mani sue ci sono i posti digitali, no? Piglia valore. E lui vuole gli apposti che c'ha... Lo ho fatto io, proprio perché l'ho fatto io, c'ha il valore, non solo quello. Mica ce ne sono, se ne costruite la me in giro, mi bello messo. La tariffa è una cosa, apri una traccia, metti un pezzo di corrugato, quel filo ti può servire per la traccia. Ok, poi vanno 50 euro, anzi no. 150 euro all'ideatore del semitrisatore, non a Natalì, che ne dici? Sì, beh, è logico, i diritti d'autore ci vogliono. Certo, però ha giocato io. Vabbè, te li do i diritti d'autore, l'importante è che ha un valore nei buoni 200, sotto le chiavi. Hai avuto 200 euro, Lucciato, no, in Sassa è Lucciato già in America. Sì, se hai 200 euro, ti riempivi di DVD e stavi lì a romperti le spalle con il televisore, ma lascia per salvi, con 200 euro può fare altre cose, là, a parte gli scherzi. Se avevo avuto 250 euro in più, mi avrei preso un apparecchietto, no? Guarda, un 140 sicuramente, così ti elimini i problemi e indica se si aggoda, un 140, un 180, se c'è di un 100 euro anche un 440, addirittura l'accusatore a T, e ti togli qualunque problema, tu però devi fare grande passo naturalmente, e diventa una persona seria, relativamente. Capo, là. Beh, quello ti ha fatto i miei abbattimenti al suo autore. Abbattimenti allucinanti. Addirittura quando modulo io. E quando moduli tu ti porti appresso due stazioni. Va bene, là. Mi sono un capriccio. È brutto, sì. Tu devi pensare che io gli abbattimenti li pigliavo in macchina. Ah? A me adesso ci viene tratta in casa da apparecchi del genere. Ehi, vabbè, e vedremo un altro cazzo, io pongo la chiappa lì che poi venga a suonarmi la porta. A vedere in ciabatte di gente fare di vedere il culo. Occhio. Domani già ci vediamo, salve, non ti incazzare tutti di. Abbi pazienza e spede. Tanto lì intanto non ti sentono, ti portano a peso due voci. Cazzo. Due voci, non una o due. Io così perdo la pazienza, cioè mi chiudo tutto, buonanotte, dai. Ma vedo, calmo, calmo San Guastrello, che si fa di un po' di ragionamento. Semplicemente stare calmo. basta. Se poi non è venuto qua senza arrivare ai 3 mesi, se tu vuoi chiudere, ok, vuol dire che hai altro da fare, però non fare scemenze varie, ok? Salve, io usano squelci. Ma che squelci, io non funziona nulla oggi, e poi non c'entra niente, entra anche con lo squelci. E capito che quando ci sono le modulazioni la sento di più ancora. Si porta, se lo porta presso Adriano che fa uno scala, figurati. Gianni, purtroppo non è che stai con gli squelci. In termodulazione lo squelci non esiste. Senti, dico tutto che ci vedeva, ci sono di zendi. So tutto quello che stanno, io sono sul 21 e so tutto quello che stanno dicendo chissà dove, non lo so nemmeno che canale sono. Però sento tutte e due stazioni, quello che stanno dicendo, filo per signo. La cima era qualche, un paio di centinaia di euro e ti comprano fatto come se aveva, che fosse meglio. Ehi, già me l'aveva già pigliata, un apparecchietto, va. Adesso a prescindere dal presidente che mi tappa il culo, perché sinceramente mi tappa, scusate la frase, mi tappa di brutto. Ma con i baracchini normali è proprio impossibile, con la manto, attaccare un baracchinetto così, lui. Mi stavo nervoso, ma sono sempre la finestra, ma se lo prendo lo faccio volare. No, sinceramente, se hai la passione per la radio, non è di tutta ce la potresti fare. Avanti Gianni, che ne pensi te? No, io, guarda, sinceramente, appena appena li sento. Sentivo, cioè, dove sono lo squelci, voi va la pizza loro. Tutti e due li senti? Ah, va. Ho sentito tutto lo che stanno dicendo, proprio, come prendete portate a Natalino, proprio non riesco a ascoltarlo. Sparisce. Voi vi sento, ma siete mischiati con la radio che è più forte la loro che la vostra. No, ma io li sento bassissimi, mettendo lo squelci, chiedendo lo squelci, la prende solo qui. Natali, mi suggende, perché io ho già fatto normale, mi spaccare anche a me. La radio io non ne ho capo adesso, se alzo la radio succede più mondo. Signor, le imbarriate, ma è sbattere, no, dovrei accendere, ma non c'è una portata di mano di affarsi. Sei curioso di fare una spazzolata? Ma sì, mi spiace, non vuoi sapere il cacchio che spazzola? E poi dei cardini, sono che poi non si fatti, vabbè, là. Ma tu ti serve a me? Ma se no che siamo qua per bene di fatti, vabbè. Scoppa, proviamo a passare sui canali alti, dai. Sui canali alti, e dove passi? Non so ma quello che sono, bruh. Vado a andare sul 50 a vedere, dai. Sì, ma ho capito perché vi dovete spostare. Sai, c'è un silenzio abominevole. Dove c'è, Adria? Questo, ho capito perché vi dovete spostare. Natalino, mi sa che stiamo prendendo colpi veramente. Oh, la perché anche tu dici? Gli unici che non li prendiamo siamo io e tutto. No, no, assolutamente Natalino. Proprio zero. Addirittura siamo con QRM. Boh, non ho capito. A questo punto devo scattare la curiosità. Sì, a vedere chi siamo. Aspetta, c'è una spazzolata. 215 dove è il riferimento, Aspetta, cosa, chi può disturbarli? E intanto l'acqua e io, dopo torniamo qua. No, anche perché io sono nello stesso punto dove sono loro. Loro non riescono a fare una minchia e io riesco a sentire te normalmente. Dai, vabbè. Allora, abbracciamo in onda e vediamo chi è. Adriano. Un attimino sto guardando chi cavolo è che mi sta rompendo le palle. Ehi, cazzo, chi è? Te lo dico io chi è? No, è perché c'è il VFO, non so come animo un culo. Oh, tu, cioè, sono tutti e due vicini a me, capito? Vicinissimi. Vabbè. Natalaus. Io ho sentito Saverio in questo canale qua, mentre stavo spazzando per chi poteva essere sta qua, interrogando sia Saverio sia Gianni. Non ho avuto il tempo. Oh, papà. E io non ho fatto in tempo, Sono subito a Saverio che mi ha chiamato. Uguale. Come? Ripeti? 4.25. Un attimo, Riprendi Gianni. Oh, ma al fatto non ce ne compra di più. A me mi senti Gianni? Sì, io ti sento bene, tu li compri tutti. Ma guarda, io sono Masso. Ma cosa vuol dire basso? Te ne accorgi al segnale, no? La radio è forte la tua, capito? E quindi confè. Ho capito, sono basso. Poco fa ho alzato il basso. Ma il sorriso non mi sentiva lo stesso. Cazzo aiuto. Io, anche se posso, non lo faccio mai. Proprio per non dare disturbo a nessuno. E poi di notte non è che c'è bisogno di pompare, si può parlare un po' tranquillamente. Io vedi, sto parlando tranquillamente, non è che gioco pompente o cose. Questo non è che sono malacchinetto, capito? Sto per giunta, sono scemate con tre, faccio tre matte e c'ho un malacchinetto proprio antiquato, da dritti proprio, capito? Adesso me ne vado a mangiare, dai. Ho così il uovo di queste ore. Cappasa, vabbè, comunque ci arrivo con lo squelce, lascio la base di nuovo. Sì, sono rientri, sì, ho visto, ma segnali abbastanza bassi, nei limiti, ovviamente voi siete molto vicini, però già le potenze del genere. Ma sarebbe un milliwatt. No, ognuno fa quello che vuole logicamente. Sono in linea verso 100 metri uno dall'altro, se c'è bisogno di modularsi con 100 watt. Ma che ce ne frega? Ognuno fa quello che vuole, sapete. Va bene, ho così, vado a mangiare. Ciao a tutti. Ciao, Savi, dopo rientra, fottitini. Dai, magari poi non c'è problema. Sì, ma sì, una cosa, ma cioè adesso non c'è nessuno con Gil, poi va a pulsare, oggi sono pulsato là, vabbè. Ciao, non mi interessa, ciao. Soltanto che non lo stacco proprio, buonanotte. No, Savi, invece fallo proprio per il piccati, non te ho dietro l'apparato, uno dove ha fatto, non c'è forza. Perché a questo punto, insomma, non si fa. Ho visto, ci sono andato solo perché mi avete detto voi la frequenza, altrimenti io logicamente non li sento. Sono andato apposta per questi segnaloni abnormi. C'è bisogno di roba del genere, per basterebbe, ripeto, un watt per i porci proprio. Però, sai, come pensa è una cosa optional. Ah, tranquillo, non c'è problema. Tu dimmi quando la gesti con l'apparecchio, poi ti faccio usare a coppia con quello lì. Voglio vedere, no, anch'io mi metto la modulare del valore locale, 100-150 watt, tranquillo, ciao. No, aspetta, allora a questo punto fai, ti abbassi a livello loro, perché abbiamo apparati seri, però tutti gli altri prendono grandissimi colpi. No, così non si fa, sapete. Ehi, ma neanche io quello ne prendo, Adria. Ma lo sento solo a Temi, a Gianni lo sento confuso. Allora a Natalino se ne fa vita. quella lì la in questione. Ho messo per rispetto questo qui, per non avere problemi. Quindi stavo facendo gli spiriti, ma basta, non voglio manco parlare, che poi pare che sono vivevo, dai, dai, stanno a mangiare, buon proseguo, ciao. Ok, Saverio, avanti Natalino. Ciao, Saverio, ciao. Io che non ne ho, se no qualcuno gliel'avrei dato, gliel'avrei prestato un apparecchio a Saverio, capito? Ma non mangio. Di quei baracchini così grossi non ne ho io. Ma guarda, sinceramente anch'io a questo punto l'avrei dato un 140, un 180, un 440 sull'istante. In modo da non prendere il colpo e uscire normalmente. Non potrei scattare lì. Gli altri si lamentino, mentre invece sono loro che fanno casino. Per rendersi conto che stanno disturbando. Ci vuole una pena di coerenza. Avanti, Gianni. Sì, e comunque Adriano ha ragione, quando parli tu ti riporti appresso, perché Natalino si sente chiaro chiaro, invece quando parli tu ti riporti appresso. Perché il segnale è troppo forte, l'ho visto, ci sono andato direttamente, quando avevo modo di tu invece non sento niente io, sento normale, come se fossi, no, sì, normale. Invece tu c'è un'intermodulazione addirittura, sì, ho visto il segnale bello alto, a metà bombarda. Sì, e se te l'ho detto. Qua arrivano parati. Beh, vabbè, possiamo cambiare discorso, thank you. Che avanza! Avete risposto in due, penso che avete risposto la stessa cosa, spero. Yes, sir. Natalino, come mai non te l'ha fatto piazzare con l'antenna? Ho detto, mi ha detto cosa? L'ho attaccato un occhiello fuori del terrazzo e c'era un occhiello libero lì, per provarlo, non per altro. Beh, mi ha detto cosa? Uno e l'altra, e mi ha giunto che va. Se ce ne pronta all'uso anche col cinematizzatore, uno è quello che ci ha attaccato al tubo. Yeah. E lo dici di tanti fastidi, un gatto, ognuno che lo si vede, ma lo di fare un gatto di fuoco. Cazzo, se a te ti dà una cosa, penso che ti lamenti, no? Io allora, siccome casa non voglio avere questioni con nessuno, me l'ho tolto, molto ci vuole. Quando vuol dire me ne vado a casa mia, cazzo ne pongo 15 di antenne, voglio vedere se mi dici una cosa. Quando mi dici cosa cazzo la parte di birra, cazzo è più feroce di la fabbricata, ne manco un po' di bari dopo. Iaia, ma mi piace per questo vivere. Approvo Gianni, ce la puglio pienamente. Che la faccio quando me ne vado a casa mia, mi metto anche il traliccio, dopo l'antenna e beato. Se sono così gente, cazzo, qua. Antenne di poli, tutto mi piace. No, Fede, cazzo c'è in chimica, campagna di zinzari su. E infatti poi io sono staccato da loro, quindi infatti me le piace proprio attaccati da, se non diamo fastidio, giustamente, a nessuno. Se ne bavo i dirigina nei buchi, nel dinaccio, in modo di accorcio bene, anche a me mi piace esci bene. Ci viene a Baldi Urba. Ma perché? Ci prendiamo la casetta con tuo mostro. Vabbè, a me non pensare male, ognuno applica anche i suoi. No, io sto pregare in alto. Rettificato, Come diatto? Ho detto è rettificato, c'è che pensassero male. Sì, per chiarire. Tanto perché lì, che invece, no, solo perché da single, ecco, sono diventato single, quindi non parli urba, e io facciamo quello che cavolo ci pare che ci piace. Vamos, io sono a 426 metri sopra il livello del mare, già mi basta qua. Vedrai quando salgo le antenne sopra la strada, oh yeah. Intendi le matracchi, le becche. Dai, che vogliamo partecipare alla costruzione. Non fa sombre quella la canzone, mi devo piazzare per forza, e se no non mi sentono. Già le intende le murmurando con 10 pazzi, ma figurati se le metto in alto. Beh, quello piace, deve andare. No, io ti domando, via, parami, se come entra la corale, chi dà la canzone? Beh, se no si vuole neanche nella strada, non ti convene. No, devo salire la rampa per la salvata 12 metri e quindi a Ruglia se i radiali sono fuori dalla strada. Almeno le parti di Santa Teresa, quella zona lì, ci parlo così come una telefonata. Come le via Pietromica? Dopo ottobre, se mi danno il pezzo della carta, già ci divertiamo in 10 metri, roba di direttiva, abbiamo. E dopo già c'è la 5 dei Ruffo e le altre. Che casomai già arriva anche a Isola Zabba, perché c'è anche la QSL qua. E va. Ah no! Dove si trovano a Torino? Aspetta, Gianni e Natalino avete lo stesso segnale, ma Gianni dove cavolo si è finito? Non mi scende. No, 9-18, come si dice 9? No, aspetta, no, che 9-18, 9-9. Sarebbe di neanche 9-10, boh. Vabbè, sei tu che stai combinando. Boh, ma tutto ok. Ma, vedo segnali strani oggi. No comment, vi ripeterò domani. No, perché Andrea, io qua ho guardato gli strumenti, stazionari non ne ho, infatti sono questi, ma che sia qualche altra cosa. La bagaglia tua. 5-4 arrivando già. Ma si è maturata. Adesso ho capito, vabbè io sono piccolo innocente, non vado a sbeciare gli altri degli altri, adesso ho capito. Ogni batturalla 9:20. Allora 9:25 è fatta arrivare, tranquillo. A te c'è di Lazzarino, no, ti sei abituato di nuca, no, vedi lo smitter. E appunto c'è la giornata a Baldardo, aspetta un attimo là. Vediamo un po' se mi ascolta meglio così, alla pittina. Prova. Guarda un attimo, là. La cipolla 9:30 no, ti ascolto. Tu come mi ascolti? E chi mi sei il nome? Ho altro di nei vari giorni. Io no, sono qua. Sono normalissimo. Adesso sì. Adesso mi sono ascolto. No, mi stavo preoccupando sia per la parte sia per l'antenna. Già cominciano a pensare cose strane, no, niente. Non ti avevo mai sentito così basso. Strano che ti avevi così basso, boh! Io ho visto invece, sì. Per un momento si è aggiustata la mia antenna, si è detto, ma forse è normale. Aspetta che non sia. Come ho toccato magari lo squelci che abbiamo abbassato tutto qua. Aspetta che controllo, vedi? No, tutto quanto a posto, tu qui. Quando ti arrivo, mi hai detto? No, guarda, c'è lo squelci. Come ho toccato lo squelci si è passato da 9 e 2, neanche 9:05, 9:02, a 9:19, come ha toccato lo squelci. E io come sono arrivato a via? Tu sei 19. Tu sei 19 da 9:10. Ma non mi so. Vabbè, tu arrivi già forte da prima, era lui basso. E infatti ti parlavi sopra. Ah, così io. Non incappa. Ma abbiamo diversi apparecchi, no? deve essere potenza più che altro, non deve essere apparecchi. Lo sai che l'ho dovuto mettere per aumentare gli auto? Cosa hai dovuto mettere? Una mazza? Niente, infatti l'apparato, ma niente. E da 10% penso che ci sia differenza. No, ma per quello che puoi tornare come di prima, tanto il segnale era già più forte prima, non passavi già prima. Era Gianni che c'era la scuola e ci aveva passato. Già lo so, ma io per farmi sentire meglio la voce mia da me. Beh, adesso sono come ero prima. Che è meglio. E dico tutto. Meglio poco che mal accompagnato. Gianni, a macca di piena scena, ogni brinco. Sento le sirene, Adria, quando parlo. Senta, guarda che sei in casa. Cosa? La cosa abbassa in chili. È logico che le senti. Io so che passano al ponte. Diciamo ne passiamo ogni 10-15 minuti, quindi no comment. È casino? Un po' di casino. Poca che via Pascoli? Di qua, chi sta nella vetta via Pascoli, ponte, è la tratta che fino ad arrivare a Punto Soccorso, quella si usa, via Pascoli e il ponte, quello è. E che ci vuoi fare? Ben venga, ti sono contento. C'è la compagnia, Adriano. Sì, scusa Gianni, mi sento che siamo modulati. La salire, alla fine di casa di a me, Gianni. Pazzo, che sono col presidente, sopra la sedia. Sono l'alimentatore switching che è costruito da me. Sì, ho capito, però se avete offeso il segnale, un attimo di bianco e aspetta il tuo turno, ma che cacchio, la ruota non esiste più. Sì, però c'è Gianni che sta tutto veloce, non è colpa mia. Allora sai questo presidente, non piglia ancora, se mi rubo io dirà io, un cazzo ne vengo. Aspetta di quello a coso. No, non dico niente. Bucati la radio, taglia il cavo del microfono, che è una modulazione che fa schifo, segnale va bene, una modulazione a chiave che... No, poi cosa cazzo va, è la radio che non... Cazzo, ma è un po' la telecom. Il metodo per aumentarla. Sì, pronto telecom. Ci sarà la LED chiusa qua. Domani lo apre, vediamo un po' se riesce a tagliare qualcosa dentro, l'appunto. Invece mettiti le mani in tasca, la sapellezza, ci metti in furbi dei casi vari, il microfono, il telefonico, proprio se c'è una telefonata, non lo sbaglio Gianni. Ciao l'audio del telefono, del telefono a filo, non cellulare, cellulare hi-fi, al telefono a filo. Sì, è vero, di quando lo senti in radio, quando ti fa sentire qualche telefonata, qualche giornalista, cose del genere. Asco, gli ho messo la capsula dell'Alan 48 qua, non sto scherzando, ed esce così, quindi non è il microfono. Vabbè, allora ecco, fai tua sorella, cosa vuoi ti dica? No, è telefonico la modulazione. Ma c'è qualcos'altro che non va bene, può essere un microfono, ma ci puoi la capsula di un GPM, il microfono grande. Come se avessi il bicchiere davanti alla bocca, così mi esce, tanto lì. Prova! Prova tu Gianni a imitare la modulazione di Natalino. Io dovrei mettere un equalizzatore per togliere, per tagliare praticamente la banda, per imitare la modulazione di Natalino. Provaci tu Gianni a imitare la modulazione di Natalino, a farla telefonica. Signorino, mi ascolti? sempre tappato il naso, e però sei troppo forte. No, ho fatto il bicchiere con la bocca, con la mano, il bicchiere come sta parlando lui. Quindi tanti a questo microfono è solo a terra, non è altro cazzo. Ho fatto 10 anni, ero stato degli abusi di un altro, quindi migliore di 3. Che cazzo le ne ho altre due? Dai. Non le posso mettere perché non ci stanno in questo microfono, è quello il discorso. Devo inventare qualcosa. Mi devo vendere di suave. Quello è il sapicetto pure. Quanti non è bianco, scusate. Però il bello non piglia accorti, devo comprarlo per questo che fa il suo errato. Ma vabbè, adesso me ne torno con l'altro. Gianni? Adesso è sempre telefonico, mi ascolti. Gianni? Cazzo c'è fino a fatto? Bubu! Oh signor! Guarda. Io sono. Si qualifichi, chi è lei? Sono mitraglia. Sono mitragliatore. Ciao, mitragliatore. Gianni, non ti ho sentito? Ma era qui fino a un minuto fa. Chissà che cazzo è fino a fatto, perché ho cambiato a fare che non c'è più nessuno. Vado a sapere. Non si usa. Tu la cara sei. Eia. Guarda, e questa foto la devi chiedere. Ma tanto non ne ho visto io. Ma io già l'ho vista. Hola. Gianni. Vabbè, a te. No, non ci ho fatto caso, non lo stavo guardando lo Smith, no, non ci ho fatto caso. La verità, ero girato dall'altra parte e stavo facendo cosa. Ma c'è anche Adriano, mi ha fatto un attimo di bianco. Cappa, no, è lontana comunque. E cappa. Gianni, non senti subito. Grazie, mi sta distrutto da parecchio, si è avviato. Aspetta un attimo. Natalizio, cambio microfono, vabbè, sei se questo apparecchio con il sarda si prende. Ah, va bene, Neda. Spagnols. Oh, yeah. Ah, aspetta. Ho perché sto facendo mi sembra. Ah, boh, non lo so. Gianni, che fine ha fatto? Perché io ho cambiato apparecchio e non ce l'ha più. Ma se è rientrato in questo momento, ne sono... Ma già sono fitta in Anguria. Gianni, sì. No, Gianni probabilmente ha cambiato un canale. O si è addormentato, che ne so. No. Non so, c'è qualcun altro. Se vedi, sì, niente, nulla. C'è entrato Pierpaolo che sta cambiando il microfono a vedere se esce con l'apparecchio col tema è più 3. No, troppo. No, non lo sapevo. Signor, ma cosa è stato da circolare? Si fatti più baci. Io mi stavo preoccupando che avevo problemi di antenna allo smitter. Niente, è proprio da circolare. Che cavolo ne so io. È bello che l'unico rimasto col segnale normale sei tu, ma in quello è passato da circolare. Ma cosa è cazzo? A me mi dici. Se vi dici da destini a barata l'antenna. Ehi, già ci sono a Tarifa. Cappa. Ci sono, ma non mi funziona l'apparecchio, capito? E cosa si fa? Non esce. Non esce? No. È un innesco già. Sì, non esce Natali, non usciva di radio. Capo vi sentivo però non usciva, si deve essere partito finale. Ma trasmettere a sale. No, negativo. Cazzo, per allora il finale sì. È un po' di palle, qua 9-10. Che finale. E questo è l'altro. Ah, che mi ha preparato. No, come ho detto. E che apparato è che stavi usando poco fa? Il Galax. E che cavolo ti ha fatto fare la radio che c'ha il beat perfettamente uguale? Apparecchi americani sono. Apparecchi americani? Ho capito. Vabbè, non si può dire. Ma siamo capiti. Cavolo, vabbè. Questo qui va bene, Adriano, come ti arrivo il segnale? Se mi fai 4 bit uno sopra l'altro si capisce la massa. Non devi modulare perché devo smettere la palla. Che sia partito qualche cosa nello spezzone. Ma dai, ma è stata semplicemente una protezione. Semplicemente una protezione. Riprova. Boh. Cioè, purtroppo questo qua che mi via di gruppo non è partito. Adriano, che prima di monta quel gas? Sono le 69. Sì, allora lo devo dire. Sì, vabbè, però potete metterlo all'interno all'origine, le cose che quando cambia il finale poi devi riaccordarlo. Io già lo so che lo devi riaccordare alla massima potenza, già lo so. Una volta che lo cambi bisogna ritararlo. Senza si brucia una parete. Ma è una cosa che questo è meglio di andare in corso, ok? E cosa vuoi dire, Natali? Magari semplicemente c'è il riscaldamento, fanno in protezione. E beh, no, quando la fredda riprende a funzionare, evidentemente. Io c'è questo qua, ne ho un altro, non ho ancora, e non c'è problema. Questo qui si lascia come bellezza e poi. No, cosa è come bellezza? C'è il 1969 nel finale. Gli è facile a trovarsi. Ehi, non è che costa come quelli del preside, che qui sono i 60 euro l'uno. Costa di meno, da qui. Adesso vediamo un attimino, dai, controllo una cosa, un attimo di bianco per me. Sì, è più basso. Un attimo di bianco per me, Adriano. Io che ti metto le strisce. Ok, Adriano, facci. Oh, signor. E il signor De che? Fai girare, Natali. Avanti per caso se ci sei, Antonio. Speriamo che ci sia Antonio. Antonio? Capo, io ci sono, Basta. Vabbè, vedi, qua state combinando, è bello. Ciao Adriano, tutto a posto. E tutto a posto? Se vi va tutto bene siamo rovinati. Ciao Pierpaolo. Addirittura rovinati, caspita. Ora siamo tutti rovinati, però fra poco siamo tutti. Se tutti va bene siamo rovinati, si suol dire. Ma so che mi sembra di sentire anche Gianni, perché io sono approvato nel gruppo. Ciao Gianni! Fatto un bianco Gianni, a meno mio si è incendiato i palazzi. Come si è incendiato i palazzi? E dice che non funziona il Galaxy, che non sarebbe manco lo smitter. Ma adesso vediamo, io penso che sia qualche spezzo in crotto, ma non manco, ma cosa dici che intendi? Sente? Ehi, solo che non sapevo lo smitter quando schiaccio la portante. Cosa ha fatto? E infatti, ha detto di farti amare, nonna. Ma che vuol dire il sintomo del finale? Già glielo ho detto, infatti. Buonasera a tutti. Occhio al perizoma! Papà, sempre. Farò raffreddare un po', perché magari non si è che è scaldato troppo, si è andato in protezione. Vediamo un po' che succede. Infatti. No, vediamo. Mi stava pensando con il microfono, Me la so te. Ah, io no. Per far dire a me che frappendi, no, di boh, basta, finish. Che cosa hai detto? Non ho capito, Natale. Anche io stavo facendo qua stasera. Basta, finish. Ho sentito ripetere perché ho appoggiato la mano alla zampata, che sono tirato tutto. Succede, là, non succede anche a me. Ciao gara. Adesso ho finito di appensarmi con questo cazzo di microfono, mi stavo cervellando. Però fa funzionare stare più tre su questo baracchino ed è che ho trovato difficoltà e mi sono arreso, lo riprendo domani, non è che più gara. E infatti quando uno è stanco non ha voglia, è meglio che abbandoni. Ma penso che sia troppo potente per questo baracchinetto, No, non penso. Sì, abbassando uno stato, lo so, di calcio, la 91, abbassando uno stato di cose, di potenza uno stato che non lo fa, sollevando non lo fa. Non ho capito. Fate bruciare un baracchino, Sì. Forse, adesso credo, se no glielo tolgo, a calcio la forza, capito, il baracchino sta così. Ah, sta raccolta, cioè allora è quello che fa che fischia. Stare con una bomba nero bravo. Un applauso. Si può avere un corretto a passerio? Perché no, per lì quello è altro. Sì, un 2-3 la prima per caffè. Modulazione, grazie. Allora, da 9, 19 e 19. No, modulazione, suppongo che siano anche africani. Ah, la modulazione va bene. Microfono per mare, modulazione accettabile, là. 4. Ah, va bene. Non è chi fa 3 potenti, fa esempio, chi fa uovo da combattimento, no? Però, già 5. Non roba da combattimento, ok. Voi sapete se stavo uscendo in radio. Avano sui scendi, come lo senti tu, Pierpa? Lo sento forte e chiaro, segnale non te ne posso dare con questo. Comunque in modulazione va bene. No, segnale Pierpa, lasciate pure prova, no, in modulazione. Tutto lì, semplice demolazione. Ciao, schiaffato il microfono da palmo della International su 680. E poi che si vedono i picchi di modulazione, già va già. Microfono da palmo. No, perché c'è la connessione per i digitali e quindi viene un po' male, no? Mi viene più facile usare il microfono a palmo, tutto lì. Più facile però la roba alle palle. Non c'è la cosa faccio come il microfono, lì tavola, e tocchi e le palle. Vale. Lo fai uno per l'altro, poi si può fare anche tutti e due insieme. Adesso mi interessa proprio i digitali. Chiara gara, io c'ho sempre il PSK21 acceso qua. Minchia, quanti di 11:15, boh, c'è passato l'ora, non te la accorgi neanche. Ripeti per Paolo. Signor. Mamma mia. Io ho le sigarette in macchina, ma non ho voglia di andare a prenderle. Siamo qua, sono ritornato. Scappa. Forte chiasso. Via. E adesso ho fatto tutto quello che dovevo fare. E sono a posto. Cara gara. Che si dice? Dai, piscina. Ho parlato con Olanda, oggi. Olanda, qui c'era uno di... Aspetta, dico che cacchio è questo, che devo mandare a questa, me l'ha domandata. a vedere se ne avevo qualche cartolina per la collezione di quella della Sardegna, che a lui la Sardegna gli manca. Allora, Marsala, provincia di Trapani, Sicilia, un RP 45 operatore Enrico, cala. Perché qua, insieme alla QSL devi far vedere la foto della moglie. No, adesso se c'erano le cartoline della Sardegna, mandargliele, che cazzo, la Sardegna non la sentono mai, che questo, che quello. C'è stato in Sardegna quello lì, eh? E poi ho parlato con uno dell'Olanda, della Sicilia ne ho parlato un po' io oggi. Cazzo. Arrivi un cazzo sparato, arrivavo. Aspetta un attimo. Fa vedere. Allora, questo qui è Ragusa. Chissà se è Ragusa, chissà se è Salerno, Taormina. Poco condotto, dai. Ehi, ma così mi soltezza. Uno di questi mi deve mandare via email le sue coordinate per mandargli la QSL. E se non rimanda, non mi rimando. Senza coordinate non gliela faccio mandare a QSL. Andrà bene Meda, io ho messo la Porto Rotondo, Santa Teresa di Gallura, qua sono i bar di Castellini, nei raggi bussi. Mi è rimasta una. La QSL è personale. Ne ho rimasta una. Anzi, mi ha detto cartolina della collezione della Sardegna. Quattro le mando anche io. Andare. Ah, hai fatto benissimo. Ehi, quello dell'Olanda, gatta, non ne faceva quelle, sennò, gatta, mi sarebbe piaciuto, gli arrivavo fortissimo. E stava arrivando lui con una direttiva. Ma appunto con la direttiva. Ma tutti c'hanno la direttiva e apparecchi grossi questi qui, boh. Adesso ci mi. Natalino, poi una domanda se lo sai, il 10 sotto che numero di frequenza c'ha? Il 10 sotto, bisogna, la tabella bisogna guardare dei canali, adesso non me lo ricordo, e non ce l'ho presente adesso la tabella esatta, se no bisognerebbe guardare su internet che ci sono le tabelle dei canali. Natalino! 26 625. Se andate sotto passi che riesco a sentire qualcosa anch'io, Sopra? Dove sopra? Sotto 40 sotto, boh, 40 canali sotto, così da. Sarà già. Allora, basta andare nell'uno normale. Nell'uno di una banda sotto, capito? Nell'uno di una banda sotto. Ma bisogna sapere la frequenza, io se non faccio la tabella dei canali come si può fare? E poi c'è Adriano che è in bianco e magari non sente e quindi non ci può seguire. Fammi la retta. Vabbè, posso aspettare Adriano, va. Comunque Gianni già lo sa, Gianni non è l'uno di una banda sotto. Io se te lo dico subito. Come? Tomato. Non sento. Aspetta, te lo dice subito. Calma. Ciao Bobuli, buonasera. 10 sotto e non me l'avete fatta sentire. Ciao Pierpaolo, ciao Antonio. Ma abbiamo detto 26 e 125. Anche non vi ascolto, dai, c'ho dei problemi qua. Già, lo sa Natale, Natalino. Dai, come vedete che canale è, una banda sotto ce la andiamo, se no non posso modulare. 26 515, è l'uno normale, lo sai? Gatta, allora mi devi fare la nivulta, eh? Non c'ho la tabella, io devo girare per guardare. Vabbè, io me l'ho segnato, 26 515. Non è che è l'uno normale, no? 26 515. L'uno normale è 26 965, a 30. Allora c'è quello, chiama. Beh già, bruciato. Sei sicuro che non lo spezzone? sì. Ho provato a mettere anche il filo diretto la tariffa. Non è questo lo dispettone, non lì. A meno che sia quello che va dalla cosa al baracchino, boh, ma non penso. Allora, dal Rosmetro al baracchino. Anche una diretta, Boni. Ma pure in antena diretta, cioè cosa devo fare? Devo cavare tutti i cavi gli apparati, tutti i fili, tutto quanto per smontare quello grande, perché c'è gli altri apparecchi sotto. Ma commutatore d'antenna c'hai? No. E come fai senza commutatore a commutare tutti gli apparecchi? Li commuto da Rosmetro, c'ho gli spezzoni che passano da Rosmetro e li cambio. Ah. Ma misurato l'hai lo spezzone? Non tutti su misura, sono 120, 95 oppure 55. No, ho misurato col tester a vedere se è a massa. Ah, col tester no. Io sono gugucato, domani lo faccio, controllo bene. Cos'è, non esce l'apparecchio già? Se la portante non esce, stavo chiamando Natalino, non mi rispondeva, chiamava Adriano, non mi rispondeva, chiamava Pierpaolo, non mi rispondeva, non sto uscendo. Però non si è alta la portante dello Smitter. C'è tra l'altro la tua del microfono che può accendere lo stesso. Però può essere un connettore attaccato, una piazza c'è una cosa al microfono, però non è successo attaccato dal connettore, non è più importante. Proviamo. Comunque c'è il finale, il 1969. Quello che c'ha il mio avanti 48. No, un abbastanza lì. Cosa forse giane? Negativo, era Natalino. No, su, dirò io. Perché la portante la dici? Scusate. No. Ecco chi era. E perché arrivate lo stesso segnale? Prendiamo a 27.515 tutti, dai, che se no sta radio non può modulare. Aspetta un attimo a Gianni. Vediamo a Gianni. Capolo questo 27.515. 26.515. Non sarà nemmeno quello. Se Antonio non scende lì di banda, non scende sotto. Sì, cazzo. Quale potete rimanere qua io? Possiamo? Troppo. Quindi hanno smesso. Sì, io. Vabbè. Stasera è tutta la sera che sto sento freddo da sta video. Infatti sono andato a vedere la televisione, adesso ho sentito che c'è qua su Sky. Abbiamo passato il volume, a chi va venendo ma di capo, tutti accavallati, pari a dire ti andiamo vedendo in pari. Purtroppo chi ci va a chiuso così. Siamo ancora già 30 più, da. Prescindere che con l'altro vado super di lusso, però già mi attrezzerò, no, non ci sono problemi, K. Comunque niente, già ti sento su macchina, ti sento sui 160 canali, non su 40, sui 160, perché proprio è un baracchino, l'acqua di rose proprio, K. E vabbè, certo. Comunque buonanotte a tutti. Io ho proprio mi chiamo Franco, mi sposto e io sono a 10 volte di potenza. Adriano, ben tratto, sì. Adriano, deve essere attaccato. numero del telefono. E Gianni, passa la prova. Gianni, hai attaccato? Ecco, sta attaccando Gianni. Il microfono, l'apparecchio, vedo c'era la... C'era il microfono, c'era l'apparecchio, che non andava. Capo, ma cosa stai usando per fare? Quello senza smitter? Ah, fa, perché? Vedi che questo microfono va bene, vedi che microfono è messo. Questo è il DM1000. Di lusso. Ottimo per la truppa, va bene. Adriano, ok, Natalino. Natalino non c'è. Gianni non c'è. Natalino, tu stai usando un NV+5, vero? Sì, io. Caparroggia. Si intende. Si intendi. E tu te ne accorgi che sto usando un NV+5. Sì, già non credo, già. Tutto chi? noi lo faremo con il traffico da altre parti. Sì, sì, sei vivo, sei morto, di che? Niente, però sei morto, scusate, io sono qua, sì, siete voi sparito ogni tanto. Gianni, cosa è cambiato? Vieni avanti. Niente, ho parlato e basta, non c'è niente da fare, bisogna portarlo dal dottore. Cosa c'ha perché l'ha parito? Cosa? Cosa c'ha? Questo è partito il finale. È partito il finale di trasmissione. Ma dica parecchio. Del garage. Ma vai, ma adesso? Io. Oh, Adriano. Vedi che è nato Rausi. Stavo dicendo. Cosa stavi dicendo e non ti ho capito? No, niente. Se ci dici avevi ricevuto il coso. Quella mandata che. Quella passata che è passata poco fa. Pensavo che ci avevi collegato. Se ti metto a fare giusto 30 minuti, dammi occhi, altrimenti se ne parlavamo un altro momento. No? Adriano, io mi posso trattenere lì se cambiamo frequenza, questa la lasciamo a loro e configuriamo quella roba là. Beh, certo io non vedo battere a loro, non c'è nessun problema. Come avete un'altra? Non lo so, non mai da te, non lo so io. Io disponibilissimo, accesi due PC, trasmettori, modem, servosum, ci sono. Se possiamo così loro, se fanno le quattro chiacchiere, ci possiamo, io non disturbo, per sicuro abbasso addirittura ancora di più. Non so se... Occhio, se disturbo si è gradita una connessazione. Ci scontriamo adesso, mi rimetti 405. Va bene, attacco. Ehi, Maria. Stappa Gianni, dimmi. Ma qua è partito il finale, se non è... Non capisco, Marta, perché cosa detto? È partito il finale e poi è sparito la radio. Non è caldo, probabilmente tu quando mi stavi dicendo che stavo abbassando come segnale avevi ragione, perché stava partendo sicuramente. Però mi stava dando 10 watt sempre, come vi dà al solito. Gianni. Sì. Lo sai che lo stavo lontano da ieri sera. Però ho la parita, lo ricordo. Ma praticamente vuol dire che non era la amministrazione. C'è lo smitter che non è rotto. Ok. Perché Gianni? Mi dispiace tutto lì, ma sono pochi euro, non è un finale che conta molto, 5 euro e te lo cambio. Non è così facile, non so chi c'è andato, vabbè dai, porterò qualcuno, se me lo puoi fare tu, te lo porto a te e te lo faccio fare. Aspetta, un attimino, bianco per me. Sigaretto dalla macchina. Oh, cazzo, mi sono trattenuto abbandonato la questa greca. Cazzo. Capito. Colui salvo di aggiacca. E vabbè, il taglio sta che troppo che me la chiusa qui. Non c'è problema. Sì, ma se sedia, cioè, se non costa molto quel finale, ne va bene. Il finale non costa molto, ma dice che vuoi tutto tarattolo. Tu hai detto metti giusti e basta, vuole fare come si deve, dovrebbe andare bene. Il fatto che qua non ce ne sono tecnici, non se ne vadi, queste cose qui non le fanno, non le fanno più qua. Vabbè, allora sono già Guido, te lo dico, se te lo fa detto. Sì, vabbè, da quel momento ti capisci. Io cosa mi faccio? Mi ammazzo, sono apparecchio. Si rabbida e luci e tu. Già si può aggiustare, già, non la prendere, la voglia. Fate tutta la prova, provate ad attaccare l'antenna. C'è l'antenna diretta, mi manca di attaccare, adesso provo. Sì, se non va, non va, c'è poco da fare. Ah no, non ho toccato niente, li ho controllati tutti. Allora è successa che cosa? Capito. Se lo vuoi trovare provalo, per vedere cosa c'è. Senta Raus, e poi ti mando di sì. Mi sono trattenuto un attimino qua, 215, ti ho abbandonato, probabilmente non mi hai trovato. Io stavo aspettando che mi dessi l'ok per andare sul 40, adesso bianco. Ah, ok, confermato, questo è greca, 405. Questa greca KCL 405. C'è un problema. Ci sono responsabili, ma sono qui di straniero, capito? Ma vedo di straniero, vogliamo una filmate. Il suo passato. all'incapace. Potrebbe essere poliziotti a smettere di essere gentili e a trascinarla in centrale. Spera che la prossima volta che questa prima donna vorrà fare una scena, deciderà in modo più furbo dall'inizio, evitando di finire nel mirino della polizia. Compra questa stazione dopo forza già nome questa stazione, K? Stazione. Tutto qui bene. Piazza. Cioè, ma ha bruciato un apparecchio, si vende tutto. Ah, che sto scherzando. Se uno si vende tutto ma bruciato un apparecchio, cioè secondo me... non si può ragionare. Per me quell'apparecchio è... Cosa è? Un apparecchio? Per un altro poi ce ne sono un apparecchio, per me è un apparecchio a cui tengo. Lo so, purtroppo... Purtroppo succede, cosa devi fare? Un miglia cose, tanto te l'hai voluto che una cazzata, ascolta, ci vuole qualcuno che lo faccia, chi c'è? Una cosa 5 euro, 5 euro fidale, più di 5 di manodopera, cioè ho un altro di biglia di manodopera, 15 euro, 20 euro, se devi si accorto. Vuole far caduta contro la linea? Mi ha detto, pur finalmente. Vuole qualcuno che lo aggiusti e basta, è solo un finale, non è che si sia bruciato chissà che cosa. Sì, bisogna vedere che si sia staccato anche qualche filo, stare con Bobby Daly, tranquillo, di coi. Può anche succedere, che si sia attaccato qualche filo, se vuole qualcuno che lo controlli bene. Quando si bruciava il finale solitamente faceva prima con pochi watt eccetera eccetera e poi non c'è più. Invece questo qui era 10 watt, l'ho controllato io. Stavo facendo Ula. Perché stai mancando già? Cosa? Non è che non devi bene la portata, perché stavo mancando? Ti stavo mancando ancora? Stavo mancando. Grazie a tutti. Ma sei tu che vola per la portata? Vuoi parlarci? Ah, ma comunque già va bene così adesso. Già ho visto che andava. Sicuramente l'induca no, perché ci avevi bene, hai compreso. Non ti piacevi bene perché sei nervoso adesso. Grazie. interessa se lo aggiustarle blu. Trasmissione. Sì, no, è trasmissione. infatti io stavo senza stazionare e niente, buco. E dopo c'è una differenza, ma già, gli imbecille però, che buono, che abbiamo fatto, ma se riduce l'altro è toccato, se lo immaginate. Sono tranquilli così, senza attaccare niente. Altre immaginate. Cazzo non ho detto. Ma meno male che mi sa che quelle lì non possono fare sul finale. Sì, ma casino per qualche bisogna, come si dice, portarlo bene allineato. Perché bisogna allinearlo? Perché dopo che cambi di finale bisogna allinearlo. No, il cazzo no, Dici. No, perché non dovrebbe avere toccato, avrà buttato il finale, basta, non avrà toccato Dio che non niente. Lo puoi guardare, nel finale di finale ci sono un paio di Dio. Guarda, se sono buccati, perché quelli si buccano, i Dio si buccano, se vedo a occhio nudo. Se non ha buccato i Dio non c'è niente da lineare. No, non lo apro io, non lo faccio vedere direttamente a un tecnico e se lo trovo, se no lo lascio da parte. Mi rimarrà come ricordo, ci sentiamo che devo chiudere, che io me ne voglio andare a letto. Ciao. Ok, buonanotte, ciao, buona giornata per domani, ciao, buonanotte.